Madame de Staël. In diverse occasioni, come Scuola delle Donne, abbiamo accennato alla interessante figura di Madame de Staël, specialmente presentando le sue toccanti riflessioni sulla morte della regina Maria Antonietta. Lasciamo il link in descrizione della nostra audiolettura integrale. Ora è arrivato il momento di presentarla per bene. Erede spirituale delle preziose, le coltissime ed emancipate donne che un secolo prima si riunivano in un vero e proprio cerchio di donne nei salotti parigini per discutere di arte, letteratura, poesia e anche politica, poiché molte di loro erano brillanti intellettuali. Anche delle preziose abbiamo parlato e lasciamo il link in descrizione. Nel loro solco si inquadra la vita e l'opera di questa straordinaria saggista e romanziera, catalizzatrice di pensiero e azione, lucida, coerente e indipendente. Germaine Necker nacque a Parigi nel 1766 da un banchiere svizzero e da una madre colta, teneva salotto il venerdì con i più brillanti pensatori dell'epoca. E filantropa, fu fondatrice dell'ospedale Necker Enfants Malades, madre che garantì alla giovane Germaine un'istruzione completa e profonda. La fanciulla crebbe nella capitale francese in un ambiente illuminista, intellettualmente stimolante. Suo padre era un uomo molto potente e questo trasmise a Germaine un senso di sicurezza di sé che l'accompagnò per tutta l'esistenza. Vicino a Ginevra, sulle rive del lago Lemano, la famiglia Necker possedeva un castello che più avanti diverrà luogo d'asilo per Germaine, già divenuta Madame de Staël. Il cognome con cui è conosciuta le venne dal matrimonio col barone svedese Staël von Holstein, uomo arido e anaffettivo che lei sposò ventenne e che aveva il doppio dei suoi anni, ma che rispondeva, per la sua posizione sociale e religione, alle richieste dei suoi genitori. Ebbe quattro tra figlie e figli, di cui non è sicuro che il padre fosse proprio il barone suo marito, a cui figli e figlie si dedicò con tenerezza e attenzione, pur senza tralasciare gli impegni mondani e la scrittura. Madame non era bella, ma il suo temperamento e la sua brillante eloquenza facevano di lei e del suo salotto parigino un richiamo irresistibile per gli intellettuali dell'epoca. Dal marito visse quasi sempre separata, autonoma nelle finanze e nelle decisioni. Nel 1788 la presa della Bastiglia portò alla soppressione dei privilegi feudali. 4 anni dopo, nel 1792, furono ghigliottinati i sovrani e quasi tutta l'aristocrazia in quello che la storia ancora riferisce come il terrore. Madame de Staël aveva 26 anni e dopo aver inizialmente creduto nella rivoluzione come tantissime donne e uomini istintivamente liberali, dovette abbandonare la Francia, divenuta un luogo pericoloso, rifugiandosi in Inghilterra con altri intellettuali. Scrisse le Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione francese, pubblicato postumo, in cui condannava accuratamente gli arresti e le esecuzioni operate dai capi della rivoluzione. La sua aperta opposizione a Napoleone la costrinse a lunghi anni di esilio, durante i quali viaggiò e conobbe esponenti del romanticismo tedesco che la segnarono profondamente. Alla morte del padre, che costituiva per lei il modello perfetto di guida politica, si ritirò nel castello di famiglia in Svizzera, affidando la prole a un insigne precettore tedesco, August Schlegel, fratello del più noto Friedrich. Ma Madame non era donna da rilassarsi nella pace della natura svizzera. La sua esistenza era frenetica e piena di idee che lei appuntava su carta, avendo sempre con sé uno scrittoio portatile. Nel frattempo rimase vedova ed ebbe diversi amanti con i quali non vi era tregua nel discutere e scambiare idee sulla geopolitica e sui diritti umani. Tra i suoi amici e amiche intellettuali vi fu Madame de Récamier, o Juliette, come veniva chiamata nella sua cerchia intima, la quale in Donne, vite parallele, di cui abbiamo dato lettura su questo canale, venne descritta dall'autrice Concepción Gimeno come colei che sapeva come attirare tutti gli affetti e tutta l'ammirazione con il fascino brillante del suo spirito. Madame Récamier si era rifiutata alle attenzioni amorose di Napoleone, che si vendicò ferocemente dell'affronto. Con tale entourage, Madame de Staël animò la vita nel castello, nella cui galleria fece ricavare un teatro. Nacque il gruppo di Coppée, da dal nome del luogo dove sorgeva il castello, uno spazio di confronto aperto e lucido in cui intellettuali di entrambi i sessi teorizzavano e promuovevano la resistenza alla scellerata politica imperiale napoleonica. A 38 anni Madame de Staël viaggiò in Italia, che nonostante la sua frammentazione politica ed economica la emozionò per la sua cultura e arte e le ispirò il romanzo che vogliamo proporvi, Corinne o l'Italia, che pubblicò 3 anni dopo, nel 1807, in parte autobiografico, tanto che si fece ritrarre come Corinna dalla pittrice francese Elisabeth Vigée-Lebrun, che era stata la ritrattista ufficiale della regina di Francia prima che fosse ghigliottinata. Tornò poi in Germania e a Vienna e a 46 anni scrisse De l'Allemagne, della Germania, col quale intendeva sdoganare la poetica romantica in Francia. Il saggio fu censurato dal sessista e megalomane Napoleone, il quale, lo ricordiamo, dopo la rivoluzione nel suo codice napoleonico aveva decretato la subordinazione della donna al marito e tolto alle donne anche la cittadinanza, riducendole al ruolo di piacevoli animali da riproduzione. L'anno successivo vide Germaine de Staël tornare in Svizzera, dove si risposò con un uomo che aveva la metà dei suoi anni, col quale ebbe un altro figlio. Ma le sue traversie non erano finite. La polizia la sorvegliava e fu costretta a scappare in Russia, poi in Svezia e infine a Londra, dove a 47 anni fece ristampare il saggio sulla Germania. Riuscì ad assistere alla caduta di Napoleone e alla restaurazione della monarchia e a 51 anni lasciò il corpo che venne tumulato nel suo castello svizzero. Il romanzo che vogliamo proporvi, Corinna o l'Italia, divenne un best seller europeo e aprì la strada al romanzo femminile romantico. Ambientato negli stessi anni in cui Madame de Staël viaggiò in Italia e in parte autobiografico, tratto dal suo stesso diario di viaggio, descrive l'incontro tra un giovane britannico e una poeta italiana, Corinna. La protagonista si dice fosse stata ispirata sia dalla compositrice francese Hélène de Montgeroul, amica di Madame de Staël, sia dalla figura della poeta toscana Maria Maddalena Morelli, detta Corilla Olimpica, vissuta mezzo secolo prima e morta proprio nel 1800. Due parole su Corilla Olimpica. Già a 20 anni mostrava una straordinaria abilità per quell'improvvisazione poetica che la renderà famosa. Fondò l'ordine dei Cavalieri Olimpici e, come Madame de Staël, prese le difese di Maria Antonietta pubblicando un canto in sua lode. Quando aveva 38 anni le fu offerto da Francesco I imperatore un posto di poeta laureata presso la corte austriaca. Maria Maddalena accettò e si trasferì a Vienna, dove fu ammirata da Metastasio e probabilmente conobbe la compositrice Marianna Martinez. Prima dei 40 anni tornò in Italia e si stabilì a Roma, dove entrò a far parte dell'Arcadia, un circolo poetico con il nome d'arte di Corilla Olimpica, appunto. Più tardi, il principe di Castiglione, suo mecenate e amante, ne caldeggiò l'incoronazione in Campidoglio, ma l'ego non era permesso alle artiste, era una prerogativa solo maschile e l'evento provocò lo scherno da parte dei poeti, nonché grande umiliazione per lei, che fu costretta a fuggire dalla capitale e a tornare in Toscana, dove finché visse continuò a tenere salotto in casa. Tornando al romanzo Corinna, il tema delle diversità, delle diverse identità nazionali europee era caro a Madame de Staël, come dimostra il suo saggio più famoso della Germania, e Corinna usa come cornice la vicenda della poeta, ma in realtà offre un vivace affresco dell'Italia ottocentesca e una dissertazione sulla nostra nazione e sull'attitudine alla convivenza e reciproco rispetto delle diverse identità nazionali europee, espresso dal sentimento d'amore tra persone di diverse nazionalità che si incrociano nel romanzo, il quale si poneva anche manifestamente contro il codice napoleonico, rivendicando l'autonomia e la libertà anche sessuale delle donne. Infatti, l'accoglienza della critica in Francia fu glaciale, poiché il personaggio francese tra tutti risultava frivolo e sciocco rispetto a quelli di altre nazioni. mentre divenne un enorme successo di pubblico. Ne vennero pubblicate 86 edizioni, facendo di Madame de Staël un'icona della letteratura francese e in generale della parità di genere. In Italia divenne un classico della letteratura di viaggio con 11 edizioni e ispirò la visione patriottica unitaria di Gioberti e Mazzini. La scuola delle donne è lieta di presentarvi, di Madame de Staël, Corinna o l'Italia, traduttore non specificato, edizione Truffi e Company Milano 1832, scaricato gratuitamente da Archive. Da Devana, buon ascolto. Di Madame de Staël, Corinna o l'Italia. Traduzione non specificata. Edizione Milano per Truffi e Company 1832, disponibile gratuitamente online. Osvaldo, libro primo, capitolo 1. Il signor Osvaldo Nelville, pari di Scozia, partì da Edimburgo per viaggiare in Italia durante l'inverno del 1794. Egli aveva un aspetto leggiadro e dignitoso, di molto spirito, nome illustre, ricchezze indipendenti dal capriccio della fortuna. Ma la sua salute era alterata da interna e profonda afflizione, per cui i medici, temendo che ne fosse attaccato il petto, gli avevano ordinato di respirare l'aria del mezzogiorno. Lui abbracciò i loro consigli e, sebbene mostrasse poco interesse per la conservazione dei suoi giorni, sperava tuttavia di ritrovare qualche distrazione alle sue amarezze nella varietà degli oggetti che era per vedere. Il più intimo di tutti i dolori, la perdita cioè di un padre, era la sorgente della sua malattia. Crudeli circostanze, rimorsi ispirati da scrupoli pieni di delicatezza, inasprivano sempre il suo cordoglio e la immaginazione vi mischiava in aggiunta tutti i suoi fantasmi. Quando soffriamo, ci persuadiamo facilmente di essere rei e ogni afflizione violenta genera turbamento fino anche nella coscienza. Nella verde età di 25 anni era già stanco di vivere. Il suo spirito giudicava di tutto anche prima di sentire e, sconcertata la sua sensibilità, non ammetteva più le illusioni del cuore. Nessuno più di lui si mostrava compiacente per i suoi amici quando poteva rendere loro qualche servigio, ma nessuna cosa, neppure il bene che faceva agli altri, gli risvegliava sentimento di piacere. Sacrificava costantemente, con la maggiore naturalezza, i suoi gusti a quelli degli altri, ma con tale assoluta rinuncia ad ogni specie di egoismo non si poteva attribuire alla sola generosità. Faceva a duopo concludere sovente che derivasse da quel genere suo di tristezza che non gli permetteva più di interessarsi della sua sorte medesima. Gli indifferenti godevano di siffatto carattere, lo trovavano pieno di grazia e di incanto, ma chi lo amava vedeva bene che gli si occupava dell'altrui felicità come uomo che non ne sperava alcuna per sé e in conseguenza sentiva in qualche modo pena di una felicità che Lord Neville profondeva e che non si poteva restituirgli. Il suo carattere, peraltro, era sensibile, le sue impressioni vivaci e appassionate. Riuniva in sé tutto ciò che commuove gli altri e se stesso. La sventura, però, e il pentimento lo avevano reso timido rapporto al suo destino. Credeva di disarmarlo, nulla chiedendogli. Egli sperava di rinvenire in uno scrupoloso attaccamento a tutti i suoi doveri e nella rinuncia ad ogni lieto godimento una sicurezza, un'assicurazione contro le pene che lacerano l'anima. Gli faceva paura tutto ciò che aveva provato e nulla in questo mondo gli pareva meritarsi il rischio di simili pene, ma quando siamo capaci di sentirle, qual è mai il sistema di vita che ci può porre al coperto delle medesime? Lord Neville si lusingava di lasciare la Scozia senza rammarico poiché vi soggiornava senza piacere, ma non è fatta in tale guisa la funesta immaginazione delle anime sensibili. Egli non si accorgeva dei legami che lo tenevano unito a quel luogo stesso dove nascevano i suoi maggiori affanni, vale a dire all'abitazione di suo padre. Vi erano in questa abitazione camere e appartamenti ai quali non poteva avvicinarsi senza provare qualche fremito. E nonostante, quando risolse di allontanarsene, gli parve di trovarsi assai più nella solitudine. Un non so che di arido ed ingrato si impossessò del suo cuore. Quando soffriva non era più padrone di versare lacrime, non poteva far più rivivere quelle piccole circostanze locali che lo intenerivano profondamente, le sue rimembranze. Nulla più avevano che derivasse dalla vita. Non erano più in relazione con gli oggetti che lo circondavano. Pensava pure a quelli di cui compiangeva la perdita, ma aggiungeva più difficilmente a delinearsene la presenza. Qualche volta ugualmente si rimproverava di abbandonare il sito in cui aveva vissuto suo padre. Chissà, diceva tra sé, se le ombre dei morti possono seguire ovunque gli oggetti della loro affezione. Forse è permesso loro di andare vagando unicamente dove riposano le loro ceneri. Chissà che in questo medesimo istante mio padre pure non si affligga della mia partenza. Ma così lontano da me gli manca la forza di richiamarmi. Ahimè, quando viveva, un ammasso di avvenimenti inauditi lo ha dovuto persuadere che io avevo tradito la sua tenerezza, che io ero ribelle alla mia patria, alla volontà paterna, tutto ciò che c'era di più sacro sulla terra. Queste memorie cagionavano a Lord Neville tanto insopportabile che non solo non avrebbe potuto confidarlo a nessuno, ma temeva lui stesso di cascarci dentro profondamente. E poi è più facile lasciare la propria patria quando fa d'uopo attraversare il mare per allontanarsene. Tutto è solenne in un viaggio di cui l'oceano segna i primi passi. Sembra che alle volte alle spalle si spalanchi un abisso e che potrebbe divenire impossibile tornare indietro. Dall'altra parte lo spettacolo del mare fa sempre profonda impressione. Il mare è l'immagine di quell'infinito che risveglia sempre il nostro pensiero e in cui sempre il nostro pensiero va a perdersi. Osvaldo, appoggiato sul timone e con gli occhi fissi sui flutti, era apparentemente tranquillo, poiché la sua alterezza e la sua timidezza, riunite insieme, non gli permettevano quasi mai di manifestare neppure ai suoi amici ciò che provava nel suo interno, eppure penosi sentimenti agitavano la sua anima. Si richiamava alla memoria quei tempi nei quali la vecchia veduta del mare ravvivava la sua giovinezza per il desiderio di fendere le onde nuotando e di misurare contro di loro la propria forza. Perché, diceva dentro di sé con amarezza, perché darmi in braccio perennemente alla riflessione? Ci sono pur tanti piaceri nella vita attiva, in quegli esercizi violenti che ci fanno sentire l'energia dell'esistenza. Allora la morte medesima non sembra che un avvenimento forse glorioso o almeno improvviso e non preceduto da nessuna gradazione distruttrice. Ma questa morte che viene senza che il coraggio l'abbia ricercata, questa morte di tenebre che vi rapisce nella notte ciò che avete di più caro, che disprezza la vostra afflizione, respinge il vostro braccio e vi oppone senza pietà le eterne leggi del tempo e della natura, questa morte inspira una specie di disprezzo per il destino umano, per l'impotenza del dolore, per tutti gli sforzi che lottano invano contro la necessità. Tali erano i sentimenti che tormentavano Osvaldo e ciò che caratterizzava la sua sventurata situazione era la vivacità della gioventù unita ai pensieri di un'età diversa. Egli si identificava con le idee che avrebbero dovuto occupare suo padre negli ultimi tempi della sua vita e si internava con l'ardore di 25 anni nelle riflessioni malinconiche della vecchiaia. Era stanco di tutto e si doleva tuttavia della perdita della felicità come se gliene fossero rimaste le illusioni. Tale contrasto, totalmente opposto ai voleri della natura, gettava nel disordine nel fondo dell'anima di Osvaldo. Ma le sue maniere esteriori avevano sempre però la dolcezza e l'armonia. La sua tristezza, lungi dall'esacerbare il suo amore, gli ispirava all'opposto maggiore bontà e condiscendenza per gli altri. Due o tre volte nel tragitto di Harwich, da Harwich a Hampden, il mare minacciò di essere Procelloso in tempesta, Lord Nelville dava consigli ai marinai, rincuorava i viaggiatori e quando per un istante faceva le veci del pilota, c'era in tutte le sue operazioni forza e destrezza tale che non dovevano considerarsi come semplice effetto della rendevolezza e dell'agilità del corpo, perché l'anima ha parte in tutto. Allorché bisognò separarsi, tutto l'equipaggio si serrava intorno a lui per congedarsi, lo ringraziavano tutti di mille piccoli servizi che aveva loro fatto nel viaggio e dei quali non si ricordava. Una volta era stato un fanciulletto di cui si era occupato lungamente, più spesso un vecchio di cui lui aveva sostenuto i passi quando il vento agitava troppo il bastimento. Una tale astrazione di personalità non si era forse incontrata mai? Passava tutta la sua giornata senza che se ne appropriasse un solo momento e l'abbandonava agli altri per malinconia o per benevolenza. Nel lasciarlo, tutti i marinai gli dissero quasi nel tempo stesso: «Mio caro signore, possiate essere più fortunato!» Osvaldo, tuttavia, non aveva espresso neppure una sola volta le sue pene e gli uomini di un'altra classe, che avevano fatto il tragitto con lui, non gliene avevano detto parola, ma alla gente del popolo, cui di rado si confidano gli altri di grado più elevato, si avvezza di scoprire gli altrui sentimenti per un mezzo diverso dalla parola. Vi compiangono quando voi soffrite, sebbene ignorino la causa del vostro dolore, e la loro spontanea pietà è senza miscuglio di biasimo o di avvertimenti. Capitolo 2. Il viaggiare, che se ne possa dire in contrario, è uno dei più tristi piaceri della vita. Allorché state bene in qualche città straniera, voi cominciate allora a farvi di essa una patria. Ma l'attraversare paesi sconosciuti, il sentir parlare un linguaggio che capite appena, il vedere volti umani senza rapporto col vostro passato né col vostro avvenire, è tutto ciò una solitudine e un isolamento senza riposo e senza dignità. Poiché quella smania e quella fretta di giungere dove nessuno vi aspetta e quell'agitazione che ha la sola sorgente nella curiosità vi ispirano poca stima di voi, fino all'istante in cui i nuovi obiettivi non divengano antichi e non creino intorno a voi qualche dolce legame di sentimento e di abitudine. Osvaldo provò dunque un raddoppiamento di tristezza nell'attraversare la Germania per entrare in Italia. Faceva d'uopo, a motivo della guerra, evitare la Francia e i paesi limitrofi. Bisognava pure allontanarsi dalle armate che rendevano le strade impraticabili. Questa necessità di occuparsi delle particolarità materiali del viaggio, di prendere ogni giorno e quasi in ogni momento nuove risoluzioni, nuove decisioni, era cosa insopportabile per Lord Nelville. La sua salute, lungi dal migliorare, lo costringeva sovente a fermarsi quando avrebbe voluto arrivare o almeno partire più sollecitamente e gli sputava sangue e si curava meno che gli fosse possibile, poiché si credeva colpevole e si accusava egli stesso con eccessiva severità. Non voleva più vivere che per difendere il suo paese. La patria, diceva tra sé, non ha ella sopra di noi dei diritti paterni? Ma conviene poterla servire utilmente, non bisogna offrirle la debole esistenza che strascino andando a chiedere al sole alcuni principi di vita per lottare contro i miei mali. Un padre solamente vi accoglierebbe in siffatto stato e tanto più vi amerebbe quanto più voi sareste abbandonato dalla natura o dalla sorte. Lord Nelville si era lusingato che la varietà continua degli oggetti esteriori avrebbe distratto un poco la immaginazione dalle sue idee abituali, ma fu ben lontano di primo lancio dal risentirne questa felice conseguenza. Dopo un grande infortunio, conviene familiarizzarsi di nuovo con tutto ciò che vi circonda, assuefarsi ai visi che vi rivedono, alla casa in cui si dimora, alle consuetudini giornaliere che si debbono riprendere. Ciascuno di questi sforzi è una scossa penosa e nessuna cosa li moltiplica di più quanto un viaggio. Il solo piacere di Lord Nelville consisteva nel percorrere le montagne del Tirolo sopra un cavallo scozzese che aveva condotto con sé e che, come i cavalli di quel paese, galoppava nel valicarne le vette. Egli si scostava dalla via maestra per scegliere i più erti e dirupati sentieri. I contadini, meravigliati, gridavano sulle prime, dallo spavento, vedendolo in tale guisa sull'orlo degli abissi, ma poi battevano le mani, ammirando la sua destrezza, la sua agilità e il suo coraggio. Osvaldo amava la grandezza del pericolo. Essa solleva il peso del dolore, essa ci riconcilia un momento con la vita che si è recuperata e che è così facile perdere. Capitolo 3. Nella città di Innsbruck, prima di entrare in Italia, Osvaldo sentì raccontare da un negoziante in casa del quale si era fermato per qualche tempo la storia di un emigrato francese nominato il conte di Erfeuil, che lo interessò di assai in suo favore. Quest'uomo aveva tollerato con perfetta serenità l'intera perdita di un patrimonio ricchissimo. Egli era vissuto e aveva dato da vivere, mediante il suo talento per la musica, a un vecchio zio che aveva assistito fino alla morte. Aveva costantemente ricusato di ricevere sussidi in denaro che gli erano offerti con ogni sollecitudine. Aveva mostrato d'altronde il più brillante valore, il valore francese, durante la guerra e la più inalterabile ilarità in mezzo ai disastri di ogni maniera. Egli desiderava di andare a Roma per trovarvi un suo parente di cui doveva essere erede e desiderava un compagno o piuttosto un amico per far con lui un viaggio più piacevole. Le rimembranze, le più dolorose di Lord Nelville, erano legate alla Francia. Egli era, nonostante esente dai pregiudizi che dividono le due nazioni, poiché aveva avuto per intimo amico un francese e aveva trovato in tale amico la più ammirabile riunione di tutte le qualità dell'anima. Si offrì dunque al negoziante che gli raccontò la storia del conte di Erfeuil di ricondurre in Italia questo nobile e sventurato giovane. Il negoziante dopo un'ora venne ad avvisare Lord Nelville che la proposta era stata accettata con riconoscenza. Osvaldo era contentissimo di prestare tale servigio, ma gli costava assai rinunciare alla sua solitudine e la sua timidezza era in pena di trovarsi tutta a un tratto in relazione abituale con un uomo che non conosceva. Il conte Erfeuil venne a far visita a Lord Nelville per ringraziarlo. Egli era gentile, manieroso, aveva un'urbanità disinvolta e di buon gusto e al primo aspetto si mostrava in situazione perfettamente lieta. Ognuno si meravigliava in vedere quanto aveva sofferto, poiché sopportava il suo destino con tanto coraggio che giungeva perfino a dimenticarlo. Quando parlava dei suoi sinistri accidenti, si scorgeva nei suoi discorsi una leggerezza veramente ammirevole, ma è necessario confessare che era meno ammirevole quando si estendeva ad altri soggetti. «Io vi professo molte obbligazioni, milord», disse il conte d'Erfeuil, portandomi via dalla Germania dove mi annoiavo a morte. «Eppure», rispose Lord Nelville, «voi siete universalmente amato e stimato». «È vero», riprese il conte d'Erfeuil, «ho degli amici che mi rincresce sinceramente di lasciare. In questo paese c'è la miglior gente del mondo, ma io non so una sillaba di tedesco e voi converrete che l'impararlo sarebbe per me affare un po' lungo e tedioso. Dopodiché, ho avuto la disgrazia di perdere mio zio, non so più come passare il tempo. Quando io dovevo occuparmi di lui, questo almeno riempiva la mia giornata. Adesso le 24 ore mi sono di molto peso». «La delicatezza della vostra condotta verso il vostro signore zio», soggiunse Lord Nelville, «ispira ad ognuno per voi, signor conte, la più profonda stima». «Io non ho fatto che il mio dovere», replicò il conte d'Erfeuil. «Il pover'uomo mi aveva ricolmato di benefici nel corso della mia infanzia. Non l'avrei mai abbandonato, fosse vissuto 100 anni. Ma è stata una fortuna per lui morire». «E lo sarebbe anche per me», aggiunse ridendo, «perché non ho molto da sperare in questo mondo. Ho fatto il possibile alla guerra per essere ucciso, ma già che la sorte mi ha risparmiato, è necessario vivere meglio che si può. Io mi compiacerei del mio arrivo in questa città», rispose Lord Nelville, «se voi foste contento in Roma e se...» «Dio mio!» l'interruppe il conte d'Erfeuil. «Io sto bene, mi trovo contento dappertutto. Quando siamo giovani e di buon umore... Ogni cosa ci riesce piacevole. E non sono già i libri, né la meditazione che mi abbiano fatto acquistare la filosofia che posseggo. Io la debbo all'esperienza del mondo. E all'abitudine delle disgrazie, voi vedete bene, milord, che ho ragione di fare molto conto sul caso, giacché mi ha procacciato l'occasione di viaggiare in vostra compagnia. Nel terminare queste parole, il conte d'Erfel salutò Lord Nelvil con la migliore grazia del mondo. Convenne con lui dell'ora della partenza nel giorno seguente e se ne andò. Il conte d'Erfel e Lord Nelvil partirono infatti il giorno dopo. Osvaldo Nelvil, dopo i primi soliti complimenti, stette più ore senza proferire parola, ma accorgendosi che con tale silenzio annoiava il suo compagno, gli domandò se aveva piacere di andare in Italia. Dio mio, rispose il conte d'Erfel, io so che si deve pensare in quel paese. Non ho vero una speranza di divertirmi. Uno dei miei amici che vi ha soggiornato 6 mesi mi ha detto non esservi provincia in Francia in cui non vi sia migliore teatro e più gradevole società che in Roma, ma in questa antica capitale del mondo io troverò sicuramente qualche francese con cui poter discorrere. Questa è l'unica cosa che desidero. Voi non vi siete curato dunque di imparare l'italiano? Interruppe Osvaldo. Niente affatto, rispose il conte d'Erfel. Questi non entrava nel piano dei miei studi. Egli disse queste parole in aria cotanto seria da poter far credere questa sua risoluzione fosse fondata su gravi e importanti motivi. Se volete che ve lo dica, continuò il conte d'Erfel, io non amo, in proposito di nazioni, che gli inglesi e i francesi. È necessario essere alteri come voi altri o brillanti come noi francesi. Tutto il restante non è altro che imitazione. Osvaldo tacque. Il conte di Erfeil alcuni momenti dopo ricominciò il suo ragionamento con tratti di spirito e di brio amabili all'estremo. Scherzava con le parole e con le frasi in maniera ingegnosissima, ma negli oggetti esteriori, nei sentimenti intimi, erano lo scopo dei suoi discorsi. Il suo parlare, per così dire, non veniva né dal di fuori né dal di dentro. Passava veloce tra l'immaginazione e la riflessione e ne erano il soggetto i soli rapporti della società. Ricordava Lord Nelvil una ventina di nomi propri, o francesi o inglesi, per sapere se li conosceva e raccontava in tale occasione degli aneddoti piccanti con stile pieno di grazia. Ma si sarebbe detto, a sentirlo, che il solo ragionare convenevole per uomo di gusto fosse, se si può dire così, il pettegolezzo della buona compagnia. Lord Nelvil rifletté per qualche tempo sul carattere del conte d'Erfel, su quel miscuglio singolare di coraggio e di frivolezza, su quel dispregio dell'infortunio così grande, se avesse costatato maggiori sforzi, così eroico, se non derivava dalla stessa sorgente che rende incapace di profonde affezioni. Un inglese, diceva Osvaldo tra sé, sarebbe oppresso di tristezze in simili circostanze. Da dove viene mai la forza di questo francese? Da dove viene la sua mobilità? Il conte d'Erfel conosce egli veramente l'arte di vivere? Quando mi credo superiore, sarei io forse piuttosto malato? La sua volubile esistenza si accorderebbe la meglio della mia con la rapidità della vita? E serve schivare la riflessione come una nemica? È necessario invece di abbandonarle tutta l'anima? Invano Osvaldo avrebbe potuto schiarire con tali dubbi. Nessuno può uscire dalla regione intellettuale che gli è stata assegnata e le prerogative e i doni della natura sono anche più indomabili dei difetti. Il conte d'Erfel non osservava alcun oggetto dell'Italia, rendeva quasi impossibile a Lord Nelvil occuparsene, poiché lo distraeva continuamente dalla disposizione che fa ammirare un bel paese e sentire le sue attrattive pittoresche. Osvaldo porgeva le orecchie, per quanto poteva, al rumore dei venti, al mormorare dei flutti, giacché tutte le voci della natura interessavano la sua anima più dei discorsi di società. Tenuti ai piedi delle Alpi, in mezzo alle rovine e sulle sponde del mare. La tristezza che consumava Osvaldo sarebbe stata il piacere che poteva gustare per l'Italia un ostacolo minore dell'allegria medesima del conte d'Erfel. L'afflizione di un'anima sensibile può collegarsi con la contemplazione della natura e col godere delle belle arti, ma la frivolezza, sotto qualunque forma essa si presenti, toglie all'attenzione la sua forza, al pensiero la sua originalità, al sentimento la sua profondità. Uno degli effetti singolari di questa frivolezza era di ispirare molta timidezza a Lord Nelvil nelle sue relazioni col conte d'Erfeuil. L'imbarazzo è quasi sempre dalla parte di colui che è di carattere più serio. Una vivace leggerezza impone sempre allo spirito che medita, e quegli che si chiama felice sembra più saggio di quello che soffre. Il conte d'Erfeuil era dolce, obbligante, compiacente in tutto. Serio soltanto nell'amor proprio e degno di essere amato come gli amava, vale a dire come buon compagno di piaceri e di pericoli, ma egli non sapeva partecipare delle afflizioni. Egli si annoiava della malinconia di Osvaldo e per buon cuore, quanto per gusto proprio, avrebbe desiderato di dissiparla. Che vi manca mai? Gli diceva spesso. Non siete voi giovane, ricco e se ne avete voglia anche di buona salute? Poiché voi siete malato unicamente perché siete malinconico, io ho perduto le mie sostanze, la mia esistenza, non so che cosa sarà di me e nonostante godo della vita come se possedessi tutte le prosperità della terra. Voi avete un coraggio quanto raro, altrettanto nobile, gli rispose Lord Nelvil, ma i disastri che avete sofferto producono minor male che le afflizioni del cuore. Le afflizioni del cuore? Riprese il conte d'Erfeuil. Oh, questo è vero, sono le più crudeli di tutti, ma anche di queste bisogna darci pace, poiché un uomo sensato deve cacciare dalla sua anima tutto ciò che non può giovare né agli altri né a se stesso. Noi siamo su questa terra primeramente per essere utili e quindi per essere felici, mio caro Nelvil. Atteniamoci a questo principio. Ciò che diceva il conte d'Erfeuil era ragionevole nel senso ordinario di questa parola, poiché il conte aveva per molti rispetti ciò che si chiama buona testa. Infatti, i caratteri appassionati, assai più che i caratteri leggeri e volubili, sono capaci di follie. Ma anziché la sua maniera di sentire eccitasse la fiducia di Lord Nelvil, egli avrebbe voluto poter assicurare il conte d'Erfeuil che era il più felice tra gli uomini per evitare il male che gli apportavano le sue consolazioni. Il conte d'Erfeuil, frattanto, si affezionava molto a Lord Nelvil. La sua rassegnazione, la sua semplicità, la sua modestia e la sua alterezza gli ispiravano per lui un rispetto dal quale non poteva sottrarsi. Egli si agitava di continuo intorno alla calma esteriore di Osvaldo e cercava nella sua testa tutto ciò che aveva sentito dire di più serio nella sua infanzia da parenti attempati per provarlo su Lord Nelvil e, sorpreso all'estremo di non poter vincere la sua apparente freddezza, diceva tra sé: «Ma non possiedo io forse bontà, franchezza e coraggio? Non sono io forse amabile in società? Che può egli dunque mancarmi per fare impressione su quest'uomo? Può egli mai derivare ciò da qualche equivoco o malinteso procedente forse dal non sapere egli abbastanza bene il francese?»